Ciao, mi chiamo Arturo. Piacere, io sono Franco. Accidenti, come ha detto che si chiama? Ti è mai successo che ti presentano una persona nuova? Passa neanche un secondo e tu ti sei già dimenticato il suo nome. Come mai accade questo? E gli neuroscienziati si sono resi conto che nel momento in cui tu conosci una persona nuova, il tuo cervello è come se fosse sottoposto ad una specie di stress, di super stress, perché in quel momento lui deve capire in un attimo, facendo come una scansione della persona che ha di fronte, se quella persona è affidabile o meno, se è simpatica o meno. Come dire, non è colpa tua, è colpa del tuo cervello. Altra situazione ancora più paradossale e temibile. Entri in un gruppo che non conosci. Ci sono 15 persone, tu sei l'unico che non conosce nessuno e qualcuno dice quella fatidica frase: "Facciamo un giro di nomi". No, ma come cavolo farò a ricordarmi tutti? E così ognuno inizia a dire il proprio: Francesco, Marco, Antonio, Lorenzo, Anna, dimmi la verità, quanti di questi nomi sei riuscito a ricordarti dopo quel giro di nomi? Ok, innanzitutto facciamocene una ragione. Se ci presentano 20 persone contemporaneamente, sarà proprio impossibile ricordarsi i nomi di tutti. Se invece le presentazioni non sono tutte insieme, ma arrivano un po' una per volta, allora una speranza c'è. Adesso ti mostrerò qualche tecnica che potrai mettere in pratica fin da subito e che ti aiuterà a ricordare i nomi delle persone. Il trucco è questo: devi legare il nome di quella persona a un'immagine viva, a un concetto forte e paradossale, a una frase strana, di modo che nel momento in cui rivedi quella persona ti viene in mente sia l'immagine, il concetto, la frase, sia il nome di quella persona che avrai legato a questa cosa qui che ti sei pensato, immaginato, visualizzato nella tua testa. Ma facciamo subito un esempio. Arturo, Arturo, Re Artù. Arturo è simile a Re Artù, anzi, Arturo me lo immagino con una bella corona in testa, come Re Artù. Ecco, ogni volta che rivedrò quella persona, mi immaginerò lui con la sua corona e quindi Re Artù e mi verrà in mente che si chiama Arturo. Avrai capito che non importa che i concetti siano logici, anzi, più sono assurdi e più sarà facile ricordarseli. Raffaella. Questa Raffaella, guarda caso, ha proprio i capelli biondi e lisci come Raffaella Carrà. Ecco, sarà facile ricordarmi che lei è come Raffaella Carrà e quindi la chiamerò subito Raffaella. Ok, in questo caso c'era proprio un'associazione diretta tra Raffaella e i suoi capelli biondi e di conseguenza Raffaella Carrà. A volte questa associazione diretta non c'è e allora bisogna lavorare ancora di più di fantasia. Cercare di essere un pochino detective, cercare magari di andare a cogliere qualche elemento particolare o nell'abbigliamento, oppure un tipo di orecchini, il trucco o la capigliatura, oppure un tratto del suo carattere che mi colpisca particolarmente e al quale possa ancorarmi per ricordarmi qualcosa di quella persona. Ad esempio, mi presentano Francesca che ha i capelli biondi, allora dentro di me comincerò a ricordarmi: Francesca assomiglia a Marilyn Monroe che aveva i capelli biondi. È bionda come lei, me lo ripeto più volte e creo dentro di me, nel mio cervello, questa associazione mentale e quando la rivedrò facilmente mi verrà in mente. Oppure Antonio che ha gli occhi azzurri come il mare, o Massimo che ha una bella corporatura e potrebbe gareggiare nei pesi massimi, o ancora qualcosa di diverso, del tipo Riccardo. Riccardo è una persona coraggiosa. Come Riccardo Cuor di Leone. Non è importante che Riccardo sia veramente una persona coraggiosa, anche perché l'hai appena conosciuto, ma è importante questa associazione mentale che crei dentro di te. Oppure un'altra tecnica ancora: vedi se tra questa persona nuova che conosci ci sono delle somiglianze con altre persone che conosci che hanno lo stesso nome. Ad esempio, Federico. Io conosco un'altra persona che si chiama Federico. Allora, guardo bene questo Federico. Che cos'ha di simile a quell'altro Federico? Magari sono alti più o meno uguali? Oppure sono calvi entrambi? Oppure entrambi hanno gli occhiali? Allora, ad esempio, potrò pensare, questo si chiama Federico perché ha gli occhiali come l'altro mio amico che si chiama Federico. Un altro stratagemma molto efficace è quello di ripetere subito il nome della persona che hai appena conosciuto. Ad esempio, hai appena conosciuto Francesco e subito dopo gli dici: allora Francesco, dimmi un po', hai trovato traffico anche tu? Ripetendo il suo nome, questo ti aiuterà a fissarlo meglio nella tua memoria. Insomma, se sei convinto che è importante ricordarsi il nome di queste persone, comincia ad esercitarti con queste tecniche e vedrai che man mano magari ne svilupperai anche delle tue. Anzi, se ne hai altre ancora più efficaci, scrivile nei commenti, così vanno a beneficio di tutti. Ok, se sei arrivato fin qui, che cosa ti costa adesso lasciare un bel mi piace e iscriverti magari anche al canale oppure alla pagina Facebook o ancora al canale Telegram che trovi nella descrizione? E se vuoi adesso però vai anche a condividere questo video con tutti i tuoi amici, ovvero con Riccardo, Antonio, Marco, Francesco, Arturo, Patrick, Loris...